Questa storia deve finire, deve finire. Che storia, Luigi? Il bagno, il bagno. Quale sarebbe il problema del bagno? Qual è il problema del bagno? Te lo dico io qual è il problema del bagno. Io ieri ci ho messo 2 ore per pulire il bagno, 2 ore. E stamattina era uno squat, come tutte le altre volte. Vabbè, Luigi, cioè, lo sai che comunque siamo tanti, il bagno si usa. Poi così è anche più vissuto, sembra una cosa un po' destrata, no? Senti, ma te, a te non fai testo, guarda, veramente. Ma regà, però Luigi c'ha ragione, obiettivamente se volete fare la sangria dentro al bidet la potete fare. Va bene tutto, però poi levate i pezzetti di frutta che è veramente, cioè, sgradevole, capito? Che poi io dico, ma te, cioè, non è possibile che ogni volta che vai al bagno fai dei pollock e dei feci. Quello è uno spazzolone, non un pennello. Però effettivamente c'ha ragione, sei disgustoso, Matteo, tu sei disgustoso. Ah, io sono disgustoso. Te quando c'è il ciclo vai in bagno, sembra che ci hanno girato dal tramonto all'alba. Io faccio schifo. Vabbè, le chiacchiere stanno a zero. Il fatto è questo: noi siamo in 6 e non abbiamo quel minimo di senso civico per gestire un bene comune. Vabbè, allora vorrà dire che da oggi tutti ci impegneremo di più per la casa, per il bagno. No, Matti, basta con le chiacchiere. Adesso si passa ai fatti. Che vorresti fare, scusa? Ma senti che voglio fare? Al fine di ottenere un servizio migliore, il bagno verrà privatizzato. Cioè? Cioè? Cioè che da adesso in poi, se tu vuoi andare in bagno, metti 50 centesimi e quei 50 centesimi verranno reinvestiti per pagare la signora delle pulizie. Ma te pare io devo andare a pagare 50 centesimi per andare a cagare nel mio bagno? Ah, regà, io ci sto. Ma che cazzo? No. Ci sto pure io. Sto. Bravissimo. Cosa state dicendo, ragazzi? Raga, ma che siete impazziti? Ci sto, cosa ci stai? È casa nostra! Pagare, casa nostra! Mattia, i tempi dei girotondi sono finiti. Sei stato fin troppo moderato. Salve, sono 50 centesimi. Ma come 50 centesimi? Io mi sto pisce sotto! E poi, cioè, tutto rispetto per l'oro suo, ma io non ce l'ho 50 centesimi, mi è stata pure scoppiata la vescica. Mi dispiace, ma non ti posso far entrare. Ma come no? Questo è il bagno di casa mia! Salve, signora Giuliana. Luca, questa volta cerca di prendere il bordo, almeno il bordo. Farò del mio meglio. Scusa, zio. Ma come mai? Salve, signora Giuliana. A lei. Non ha pulito niente, signora Giuliana. Ma come? Da stamattina ogni mezz'ora i tossici di Termini sono più puliti, più civili. Io sono stremata, non ce la faccio più. Me ne vado. Scusi, signora Giuliana, aspetti un attimo, per favore. 1 euro? Cos'è sta storia? Te lo dico io qual è sta storia. La signora Giuliana se n'è andata via perché dice che siamo degli squatter spagnoli che facciamo cacare. E io mi sono dovuto sbattere a cercare chi pulisse il bagno al posto suo e l'ho trovato. È un team di sudamericani che però chiaramente ha il suo prezzo. Ecco perché 1 euro. Ma ti pare che spendo 1 euro per lavarmi i denti? Certo, il servizio, la qualità, la pulizia. Lo vuoi? Allora devi pagare 1 euro. Tu sei completamente fuori di testa, Luigi. Angela! Oh, hai fatto, dai, devo cacare. Spazio, prima le donne, grazie. Sì, Beh, perché nessuno sta utilizzando il bagno? Lui, mica tutti quanti hanno 1 euro da investire per potersi lavare la scella, dai. Ho capito, scusate, chi è che lo paga il team dei sudamericani che ho assoldato? O paghi te o paghi, non lo paghi te. Subito, ma sei il marchiano di Roma Sud. Ah, regà, ma io l'ho fatto per voi. L'ho fatto per offrirvi un servizio migliore. Per non sentirsi ogni volta come se stai nelle favelas quando cachi. Luigi, è una tua responsabilità, cazzi tuoi. Eh sì, mo ci devi pensare solo che te, Luigi, veramente. Ma come cazzi miei? Sì. Cazzi tuoi. Facciamo per favore, sono di fretta. Grazie. E sbaglio. Mannaggia Luigi, ma te ti sembra una cosa normale? Eh? Chi sono tutti quei pupazzi? Pare che sta in prima classe su Italo. Senti Mattia, le chiacchiere stanno a zero, voi il bagno non lo utilizzate più. Io devo pagare i sudamericani, in qualche modo. Mi devo rimettere dei soldi e quindi ho aperto il bagno a tutti quanti, elevando il target a extra lusso. Bella merda, bello. E quant'è che costa adesso cagare nel mio bagno? Diglielo, vai, diglielo. Ma 5 euro, 5 euro. Però è un'esperienza, è una cosa unica. Io ti sto offrendo un'esperienza ultrasensoriale, capisci? Sono le emozioni hanno un costo. Con lo scudo. Dai, 5 euro, ti rendi conto? Per cagare a casa tua, cioè o ti compri una pinta o vai a cagare. E nel caso io volessi cagare a casa mia, adesso che cosa devo fare? Allora, grazie a quei pupazzi, quei fantastici pupazzi, io ho potuto permettermi di comprarvi questo. Così anche voi adesso avete il vostro spazio per cagare, farvi le vostre cosettine piccoline, robettine. Potete utilizzare il bagno. Vabbè, non volete usufruire del servizio migliore, di un'esperienza, di un viaggio? Vabbè, saranno cavoli vostri. Vi accontentate di questo? E siamo tutti più contenti, sì, va bene? No, così non rompete più come il cazzo. Come no, mo ti sistemo io a te. Mo vedi. Oh, a Che Guevara. 5 euro sono cifra. Un cesso chimico. Così è come se stessimo sempre al primo maggio. Questa storia, Angela, che cos'è questa storia? Scusa, abbiamo occupato il cesso. Luigi, avete occupato il cesso? Abbiamo occupato il cesso. Cosa? Tra un po'. Mattia, cos'è questa storia? Scusa, mi puoi spiegare questa storia? Luigi, ma non lo vedi da te? Abbiamo occupato il bagno, il cesso occupato. Il cesso occupato. Ci siamo ripresi uno spazio che già ci apparteneva. Abbiamo occupato il bagno. Scusa. Cosa sono questi? Mi devo spiegare? Allora Luigi, devi capire che i media hanno preso veramente a cuore la nostra questione. Tant'è che abbiamo dovuto stilare un calendario di eventi, guarda. Allora, Gennady Marcuri, poi ci sarà Sabina Guzzanti e Domenica Landini. E lo sai chi c'è stasera? Lo sai chi c'è? No. C'è Elio Germano che legge Brecht al contrario. Elio Germano? Sì. Ma ti pare? Eccolo, ciao Elio. Non lo toccare, non lo toccare. Ciao, piacere, sono Natale. Ciao, piacere. Piacere. Hai senti, c'è un camerino? Guarda, c'è solo no, quella... perché vi spiego, di là c'è Bauro che sta in overdose da 2 ore. Io non vorrei che Elio che... Grandissimo Elio, devo dire. La tua presenza qui è veramente importantissima. E poi che... Ragazzi, non c'è bisogno. Siamo tutti nella stessa battaglia, no? Per riappropriarci degli spazi, contro le logiche della speculazione, del profitto. Il cesso è un bene comune, sono le cose importanti della vita, no? Cesso libero sempre. Cesso libero. Sarà una grande cosa. Abbiamo fatto, hai salato e te veniva a Germano. No, e poi c'è una chance per occupare tua di Burti, eh? Stai un Germano, sei un Germano. Ah, Mattia, posso un attimo a cagare al bagno, per favore? No, guarda lui, veramente, mi dispiace, ma sta a cominciare l'evento, veramente, lo so. L'abbiamo liberato, l'abbiamo liberato. Lo so, lo sento, Luca, però, c'è il bagno chimico, usa il bagno chimico. Mortacci tua, Mattia. Dai, giù che sta a cominciare. Allora, vado a prendere la tripolantina. Sì, sì. Scappo pure io. Sì, ma quella cannetta di prima? Grazie. E oh, tutti dentro, eh? Dai, tutti dentro, su che comincia! Dai! Dai, andiamo che comincia, su!